prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Avevamo promesso nel nostro spazio dedicato alla Caritas di tornare ad occuparci dell'iniziativa 10.000 ore di solidarietà che si è svolta tra venerdì 27 e domenica 29 novembre. 10.000 ore, lo ricordo, è il totale delle ore messe a disposizione da ciascuno dei partecipanti, ma è un totale che è stato sicuramente superato. C'è anche il sito 10.000ore.it dove verificare 10.000 scritto in cifre. Raggiungiamo una di queste giovani che è Aurora, 16 anni, della parrocchia di Maserà di Padova. Ciao Aurora. Ciao. Eccoci qua. Allora Aurora, per la prima volta hai partecipato a questa iniziativa con il tuo gruppo Giovanissimi Parrocchiale. Come vi è stata proposta questa idea un po' singolare? Allora, durante un nostro incontro i nostri animatori ci hanno proposto questa iniziativa e appunto mettendola sul, come dire, proponendo una giornata, un weekend tutti insieme per dedicarci al volontariato. Cosa ti aspettavi? Cosa vi hanno detto prima di questa iniziativa? Potevano mandarci in vari gruppi, in varie strutture che potevano essere case di riposo oppure centri di assistenza per persone con vari problemi e poi ci è stato detto invece che saremmo andati tutti quanti insieme in una casa di riposo. Alla fine com'è andata? Cosa ci puoi raccontare di queste ore, appunto questo breve weekend in casa di riposo? Noi siamo arrivati e ci siamo in pratica divisi in due gruppi. Il primo ha fatto una tombola con gli anziani dove ognuno assisteva una persona e tutti insieme in pratica giocavano e si sono divertiti molto. Io invece ero nel secondo gruppo e ci siamo occupati dell'addobbare la casa con degli addobbi che ci hanno messo a disposizione. La rifaresti? Cioè l'anno prossimo se te la ripropongono dirai di sì? Beh, sicuramente, noi ci hanno già riproposto di tornare a gennaio, sì, per gennaio, per andare anche a togliere gli addobbi ma anche tornare a visitare gli anziani. Grazie ad Aurora, buon Natale allora e un saluto a tutta la comunità di Maserà, al gruppo Giovanissimo, ai vostri animatori, alla suora che vi ha accompagnato. Andiamo nella parte alta della diocesi di Padova, provincia di Vicenza, a Piovene Rocchette, dove troviamo Nicola. Ciao Nicola. Ciao. Eccolo qui Nicola con altri amici del gruppo parrocchiale, ha partecipato anche lui a questa edizione, però per te Nicola era già la seconda, cioè c'eri anche l'anno scorso. Sì, sì, sì, sì. L'anno scorso, allora partiamo, rifaccio le stesse domande che ho fatto ad Aurora, quando ti è stata proposta, cosa ti sei aspettato e cosa poi hai trovato effettivamente? L'anno scorso? Sì. Allora, beh, subito mi hanno detto cioè mi hanno chiesto se volevo partecipare questo progetto delle 10.000 ore di solidarietà e ho subito detto ok, perché no, e dopo mi hanno detto che dovevo praticamente andare in una casa di riposo e dare una mano agli anziani, portarli in giro con la carrozzina, portarli a messa e subito gli ho detto ok, sarà difficile comunque comunicare perché comunque magari loro non capiscono alcuni nostri atteggiamenti, però non c'era paura, voglio dire. E infine ho constatato che è stato molto, cioè mi ha arricchito molto questa cosa. E che magari era più semplice di quello che ti aspettavi. Sì, decisamente. Ecco, quindi quest'anno ti è stata riproposta, vi è stata riproposta come gruppo, quanti eravate? Eravamo in 10. Una decina, appunto, da Piovene Rocchette. E c'era anche qualcuno che l'ha fatta per la prima volta? C'erano, sì, tre persone, sì. tre persone che l'hanno fatta per la prima volta, li avete un po' istruiti, insomma, magari anche sì, rassicurati. Quest'anno, quest'anno cosa ti è capitato in sorte come servizio? Siamo andati, ci hanno chiesto di andare all'OPSA di Padova, sì, che è un, una struttura di accoglienza, una struttura, certo, sì, mm-hmm, di accoglienza per malati e disabili, sì, mentali, mm-hmm, sì, e altre disabilità. E qui come vi siete trovati? Qui è stato, te lo dico, qui è stato proprio un impatto, cioè dici, cavolo, devo a che fare con gente che, no, che non capisce, però non sai mai come relazionarti, e magari avevi paura che non li capivi, e allora dovevi chiedergli troppe volte le cose. Però adesso dico che è stato divertentissimo, cioè lo rifarei spesso, e è stato molto, sempre stato istruttivo, e sono proprio persone aperte che ti accolgono nella loro casa praticamente. Ecco, per voi che siete a Piovene Rocchette magari non è così comodo arrivare a Padova così frequentemente, però ci sono magari anche vicino a casa vostra occasioni o strutture del genere, sì, magari sì, persone piccole, sì, però ci sono e quindi magari avete preso l'impegno come gruppo, ci avete pensato, sì, di fare sì abbiamo pensato a questa cosa, sì, che magari potevamo fare una roba del genere anche qui nei dintorni, però preferivamo all'OPSA, cioè avevamo pensato subito all'OPSA e tornare all'OPSA. Va bene, ma insomma l'OPSA credo sia sempre aperta, che vi accolgano, sì, vi accolgono a braccia aperte, sì, allora, sì, sì. Grazie Nicola, buon Natale. Ciao. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.